America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Thank you for watching the Hyundai Kickoff Show, presented by the new 7-passenger Santa Fe, now with room for the whole team. Super Bowl, 47esima edizione, partita entusiasmante, hanno vinto alla fine i Ravens di Baltimora contro i 49ers di San Francisco, una partita sul filo di lana, punteggio finale 34-31, pensate che a 4 secondi dalla fine i 49ers avrebbero potuto pareggiare. È un grande spettacolo americano, devo dire, il Super Bowl, circa 147-150 milioni di persone attaccati alla televisione, 70.000-78.000 persone allo stadio, è l'evento televisivo più importante dell'anno, più importante da sempre, quest'anno si è anche superato, credo, il record dell'anno scorso, è un evento che unisce questa America che, quando la seguiamo dal punto di vista politico, appare così polarizzata, e direi che il simbolo dell'unione l'abbiamo avuto proprio da questa commovente performance, perché gli interpreti di America the Beautiful, che vi ho appena fatto ascoltare, sono i bambini che fanno parte del coro della scuola di Sandy Hook di Newtown, la scuola, lo ricorderete, che poco prima di Natale è stata teatro della strage di 20 bambini. And now to honor America, 14-time Grammy Award winner Alicia Keys. Subito dopo l'inno nazionale con Alicia Keys seduta davanti a un pianoforte bianco con un vestito rosso attillatissimo. Durante questa performance la CBS, la rete televisiva che ha trasmesso in esclusiva questa edizione del Super Bowl, ha mandato in onda le immagini dei militari americani in Afghanistan con lacrime di commozione dei giocatori. Ci sono stati dei collegamenti diretti con alcuni dei campi sul fronte di battaglia. America 24. Bene, cominciamo intanto con alcune delle curiosità di questo Super Bowl. La prima, devo dire, e dovremmo essere orgogliosi, dovremmo esserlo noi italiani, perché è stata una finale in qualche modo tutta italo-americana, una vittoria super italo-americana, perché il proprietario dei Ravens di Baltimora si chiama Steve Bisciotti, è stato lui a ricevere il trofeo e, commosso, ha ringraziato il pubblico che era in piedi in grande ovazione. Steve Bisciotti, pensate, vale 1,5 miliardi di dollari, un imprenditore che si è fatto dal nulla, è rimasto orfano a 8 anni, il padre morì di leucemia quando lui appunto era un bambino. Ma l'altro italo americano grande protagonista della serata è stato Joe Flacco, il quarterback, il regista dei Ravens. Devo dire, ha giocato con una freddezza straordinaria, un uomo molto bello, un simbolo, se volete, di quello che è l'America del football. Appunto, anche lui di una famiglia italo-americana del New Jersey, sono 3 o 4 fratelli, sono cresciuti tutti insieme, una famiglia, devo dire, modesta. Ancora più commovente invece è la storia dell'altro quarterback dei 49ers, Colin Kaepernick. Dal nome non si direbbe italiano, in effetti non lo è dal punto di vista, diciamo, legale, ma dal punto di vista biologico lo è, e come, perché la madre si chiama Russo, il padre è sconosciuto, ma è di origine latinoamericana. E Colin è stato poi adottato da una famiglia, appunto dalla famiglia dei Kaepernick. La madre era giovanissima, appena 19 anni, aveva deciso che non voleva tenere questo figlio, però ha voluto scegliere con cura la famiglia che lo avrebbe adottato. Devo dire, una storia anche questa commovente. Bene, vi dicevo che il Super Bowl è un grande condensato di quello che è l'America, a parte lo spettacolo straordinario, touchdown fantastici nel primo tempo che si è chiuso con un 21-6 a favore dei Ravens. La partita sembrava ovviamente chiusa, questi passaggi meravigliosi che vi dicevo di Flacco. Ma perché un condensato? Ma perché, per esempio, la pubblicità. La pubblicità domina non soltanto dal punto di vista del costo. Pensate che uno spot da 30 secondi costa tra i 3,7 e i 4 milioni di dollari, e i produttori di questi spot televisivi si scatenano, perché essendo questo lo spettacolo più seguito in televisione d'America, chi riesce ad aggiudicarsi il primo posto fra gli spot più seguiti, beh, di fatto è come se avesse vinto l'Oscar degli spot pubblicitari, e dunque sono fra i migliori, sono fra i più belli, sono spiritosi, intelligenti, divertenti, la gente li segue davvero con grande attenzione. Vediamo quelli che sono stati i migliori secondo le prime classifiche. Numero 1. Doritos, nachos al formaggio, avete sentito la capra? Beh, è una storia alquanto agghiacciante, perché c'è questa capra che mangia i Doritos e quando si accorge che il padrone, spaventato dalla mancanza di questi Doritos, li nasconde, attacca il padrone e lo massacra. There are two sides to GoDaddy. There's the sexy side represented by Bar Raffaelli. Ecco, questa devo dire è stata molto interessante. GoDaddy, si vedeva questa ragazza bionda, spettacolare, bellissima, seduta di fianco a un ragazzotto cicciottello coi brufoli, diciamo non bello, con delle chiazze rosse nel viso, insomma l'opposto di questa meravigliosa donna seduta di fianco a lui. E lei rappresentava il simbolo del sexy e lui quello dell'intelligenza. Che succede? Che all'improvviso si baciano e c'è questo bacio alquanto disgustoso che segna così l'unione tra la bellezza e l'intelligenza. GoDaddy è un venditore di internet domain, cioè di nomi per siti internet. And on the eighth day, God looked down on his planned paradise and said, I need a caretaker. So God made a farmer. Dio creò l'agricoltore, beh, e Dio creò anche il motore, è una delle pubblicità più azzeccate di ieri, vi consiglio di andare a vedere su internet, per Ram, uno dei truck, dei pickup truck più popolari della Chrysler. Il brand di questo truck, di questo camion, viene legato in modo quasi indissolubile alla tradizione secolare dell'agricoltore americano, riuscitissimo. Beyoncé, l'avete sentita, è stato l'entertainment del metà tempo. Il primo tempo, come vi ho detto, si era chiuso 21-6. La partita sembrava, diciamo, straordinariamente a vantaggio dei Ravens. Non sembrava possibile che i 49ers potessero riprendersi. E soprattutto perché all'inizio del secondo tempo Jones acchiappa la palla da fondo campo e fa una corsa da fondo campo fino a meta senza mai fermarsi di 108 yards. Half the power in New Orleans Stadium, the Superdome here, is out. Ecco, a quel punto, con punteggio 28-6, la partita sembrava chiusa, quando altra sorpresa mai successa in un Super Bowl, nello stadio Mercedes Superdome di New Orleans, si spengono le luci, salta il sistema elettrico, lo stadio è completamente al buio, tutti sono straordinariamente perduti, i giocatori si fermano, passa mezz'ora. Ecco, al ritorno in campo i 49ers recuperano la grinta. Pensate che fanno 17 punti in 4 minuti. La partita diventa improvvisamente avvincente, la distanza si riduce, come vi ho detto in apertura, a 4 secondi dalla fine c'erano 3 punti di differenza, 31-34. I Ravens sono riusciti a difendere fino in fondo il loro vantaggio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica, che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi con Beyoncé al Super Bowl non possiamo che dedicarla a lei. E dunque di Beyoncé, una delle sue interpretazioni di ieri notte, Single Lady. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!